Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Si chiama G4EAH1N1, è un virus appena scoperto dai ricercatori delle università agrarie di Pechino e Shandong e dai centri cinesi per il controllo della malattia. I ricercatori hanno pubblicato uno studio sulla rivista PNAS in cui sottolineano che questo nuovo virus avrebbe tutte le caratteristiche per provocare una nuova pandemia. A Obiettivo Salute il commento del professor Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di ricerca di statistica medica e epidemiologia molecolare dell'Università Campus Biomedico di Roma. Professor Ciccozzi, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie dell'invito. Professore, è un lontano parente dell'H1N1 responsabile di quell'influenza detta suina del 2009? Dunque, sì, è un lontano parente, un'influenza di tipo A che ha dato già le sue epidemie nel 57, nel 2009, nel 68, insomma. Sì, è un lontano parente, derivazione sempre a quanto pare dai suini. Ma insomma è della stessa famiglia tutto qui. Professore, ma che significato diamo a questa scoperta? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Dunque, loro hanno fatto una sorveglianza che è andata dal 2011 al 2018, hanno fatto una sorveglianza di sieroprevalenza e hanno visto gli anticorpi contro questo G4, così come l'hanno chiamato, di questa influenza di tipo A. E quello che hanno visto poi è che la popolazione normale non è quasi per niente esposta, mentre lo sono giustamente e chiaramente chi lavora in diretto contatto con i maiali. Nel 10% dei casi hanno trovato gli anticorpi. Ora, cosa aspettarci? Ma nulla di che, insomma, io direi che vediamo, andiamo avanti, vediamo, stiamo tranquilli. Noi l'influenza stagionale ce l'abbiamo ogni stagione, per questo stagionale, quindi ogni anno avremo la nostra epidemia influenzale. Potrebbe essere questa, potrebbe non esserla. Io mi ricordo nel 2009 era l'H1N1, se vi ricordate, sempre dai suini, sembrava derivata, eccetera. Quindi ecco, stiamocene tranquilli, abbiamo un'altra battaglia da combattere in questo momento e la stiamo vincendo. Allietiamoci di questa buona notizia. Stiamo vincendo. Va bene? Grazie professor Ciccozzi per queste rassicurazioni, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Per oggi è tutto. Sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, una pillola di salute col dottor Giulio Tosti, dermatologo dell'Istituto Europeo di Oncologia. Parliamo di NEI. Buona giornata da Nicoletta.